want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, want to, want two, two, two, hey, hey, check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, sound check, microphone check, il suono della musica, DJ Telesforo. Pomeriggio da Gigi Telesforo, questo è l'appuntamento del soundcheck di Radio 24, prova del suono, quella di oggi che dedichiamo a un altro strumento, come spesso facciamo da qualche lunedì. Oggi parliamo della chitarra, sì, perché sono arrivate tantissime richieste di giovanissimi chitarristi che richiedono un approfondimento su questo strumento, avendoci spedito molte email all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. Abbiamo parlato molto spesso della chitarra, avendo avuto anche tanti ospiti illustri come il nostro bravissimo chitarrista jazz Fabio Zeppetella, con il quale abbiamo raccontato l'evoluzione dello strumento all'interno del jazz, ma oggi cerchiamo di raccontare, proprio come si fa di solito con i bambini, che cos'è la chitarra, come funziona, quali sono i vari stili e che tipi di chitarra esistono sul mercato, anche perché questo è lo strumento sicuramente più venduto in assoluto. Dunque, la chitarra, partiamo subito dai fondamentali, è uno strumento musicale cordofono che viene suonato con i polpastrelli, con le unghie o con un plettro, e il suono è generato dalla vibrazione delle corde che sono tese al di sopra del piano armonico, che a sua volta poggia sulla cassa armonica che amplifica il suono. Sul manico la tastiera consente di accorciare la lunghezza della parte di corda vibrante e di suonare la nota o le note desiderate premendo la corda stessa appena dietro il rispettivo tasto. Essenzialmente le chitarre possono essere suddivise innanzitutto in due categorie, proprio a seconda del modo in cui viene amplificato il suono delle corde in vibrazione. Quindi abbiamo le chitarre acustiche, che di solito hanno un corpo vuoto a formare la cassa armonica, quindi quando è principalmente prevista un'amplificazione che sfrutti le naturali proprietà della fisica del suono, secondo un tipo di amplificazione che potremmo definire meccanico, quindi il suono naturale dello strumento va amplificato così com'è. Al contrario, le chitarre elettriche hanno un corpo pieno e solido, il famoso solid body, un manico rinforzato da un'anima in genere di acciaio, utilizzano corde metalliche, quindi è necessario l'ausilio di un'amplificazione elettrica tramite collegamento a una cassa acustica o un amplificatore, proprio per dare suono allo strumento. Infatti il suono acustico di una chitarra elettrica, l'avrete sentito, una chitarra a corpo solido, il suono è molto debole ed è anche poco percepibile, proprio data l'assenza della cassa di risonanza nello strumento. Le chitarre elettriche sono da sempre massicciamente usate nel blues, nel rock and roll, country music, nel jazz rock, nella fusion, nell'heavy metal, insomma nella maggior parte dei generi musicali contemporanei, ed essenzialmente può avere un doppio ruolo all'interno di un organico musicale, ovvero chitarra ritmica, quindi la chitarra di accompagnamento, che è la chitarra che si suona proprio per accompagnare armonicamente e ritmicamente una composizione, e al contrario di quello che si può pensare, suonare la chitarra ritmica poi non è molto più facile che farlo con la chitarra solista, anche perché questo strumento dà un'impronta fondamentale al sound di una composizione. E poi c'è la chitarra solista, che è invece la chitarra che ha la funzione di sostituire anziché accompagnare la voce, per esempio, esponendo così la melodia per trasformare un'interpretazione melodica in variazione su tema e quindi in vera e propria improvvisazione, così come avviene nel jazz, ma anche nell'hard rock ci sono eccellenti solisti che utilizzano tecniche diverse, delle quali parleremo fra pochissimo. Allora, un esempio di chitarra solista e chitarra ritmica ci viene fornito subito dal bravissimo chitarrista blues Robin Ford, che accompagna insieme al contrabbassista Charlie Eden la voce di Ricky Lee Jones in questa versione di Up From The Sky, non a caso brano scelto dal repertorio di una leggenda della chitarra rock come Jimi Hendrix. Ricky Lee Jones al soundcheck di Radio 24 con Robin Ford alla chitarra. Oh, my new mother. Yeah. I've met you many times. Chitarra ritmica e chitarra solista proposta da Robin Ford, chitarrista blues con la sua semiacustica amplificata, da questa produzione di diversi anni fa di Ricky Lee Jones. Il brano era Up From The Sky, dal repertorio di Jimi Hendrix, in questo appuntamento del nostro soundcheck dedicato alla chitarra. Soundcheck. Il suono della musica. Questo era il suono della Gibson semiacustica, un modello celebre. Adesso io non sono un chitarrista, non posso entrare nei dettagli. Chitarra suonata dal veterano della chitarra blues, jazz e R&B Phil Upchurch, un signore che ha militato nelle band di Donny Hathaway per poi accompagnare come chitarrista ritmico le avventure musicali del meraviglioso George Benson. E qui Phil Upchurch ha interpretato un classico degli Allay Brothers intitolato It's My Thing, proprio in questo appuntamento del nostro soundcheck con il quale cerchiamo di raccontare la storia della chitarra elettrica, che inizia proprio quando si avvertì l'esigenza di uno strumento che avesse alcune caratteristiche proprie della chitarra, specialmente per quanto attiene alle modalità di esecuzione, ma che potesse suonare insieme agli altri senza esserne sovrastato dal volume di suono. Ecco, con la nascita delle orchestre jazz e blues ci si rese conto proprio del problema della limitata amplificazione delle chitarre acustiche, e diversi costruttori cercarono di ovviare al problema costruendo strumenti che consentissero un volume maggiore con una tonalità simile a quella della chitarra classica. Il signor Lloyd Loar, progettista della Gibson fra il 1920 e il 1924, condusse i primi esperimenti mediante l'adozione di rilevatori in prossimità delle corde. Poi il concetto di chitarra elettrica deve però molto alle intuizioni di Adolf Rickenbacker, che nel 1931 realizzò il primo pick-up elettromagnetico, quindi un dispositivo elettronico in grado di trasformare le vibrazioni delle corde in impulsi di tipo elettrico, e così iniziò proprio ad applicarlo ai normali strumenti acustici, creando una chitarra hawaiana elettrica chiamata Frying Pan Guitar. Nel 1935 la Gibson inizia la produzione del modello ES-150, una chitarra con cassa di risonanza, modello che riscosse un grande successo, e finalmente la chitarra, grazie proprio all'amplificazione, poteva inserirsi meglio nelle formazioni del tempo senza essere sovrastata dal volume degli altri strumenti. Però nacquero così con l'amplificazione i primi problemi, ovvero il feedback acustico, un fastidioso Larsen, proprio perché la cassa dello strumento entrava in risonanza con il suono emesso dall'amplificatore, creando così degli echi, degli armonici e fischi di difficile gestione, e quindi col risultato proprio di un suono sgradevole e di difficile definizione. Soltanto nel 1941 il signor Les Paul creò per la Epiphone un prototipo, la famosa chitarra The Log, che parzialmente limitava il problema del feedback. E soltanto nel 1948 Leo Fender, tecnico progettista di amplificatori, dà una svolta definitiva creando la Broadcaster, una chitarra con due pick-up miscelabili con il corpo pieno in legno massiccio, che annulla completamente le risonanze indesiderate, aumenta il sustain delle corde, sviluppando così il concetto di chitarra solid body. E il successo è enorme, tanto che la Broadcaster, che poi si è trasformata in Telecaster, viene ancora oggi prodotta dalla Fender ed è uno degli strumenti più venduti in assoluto. Oggi parliamo della chitarra, e naturalmente un chitarrista di riferimento per il jazz e l'R&B è senz'altro George Benson, che qui, ecco, ripropone un classico di Donny Hathaway intitolato The Ghetto. George Benson al soundcheck. Yes, this is the ghetto. Soundcheck, il suono della musica. E oggi al Soundcheck di Radio 24 stiamo raccontando la chitarra elettrica, strumento che si è evoluto col tempo proprio per la ricerca dei costruttori come i signori Gibson, Fender, Rickenbacker, alla ricerca di un suono preciso e pulito, un suono che non creasse il famoso effetto Larsen, quel feedback che si crea proprio quando il suono dell'amplificazione rientra nella cassa di risonanza. E quindi esistono due modelli principali di chitarre elettriche: quella solid body, le più diffuse chitarre elettriche, quelle che hanno il corpo solido, quindi senza una cassa di risonanza, e poi le chitarre hollow body, dette anche chitarre semiacustiche, che sono chitarre caratterizzate da un suono principalmente elettrico, però è una chitarra che mantiene come concept quello della chitarra classica, quindi cassa di risonanza amplificata. E questa è la chitarra preferita dai musicisti di jazz, proprio perché ha un suono più pulito, rotondo e dolce. E questo tipo di chitarra con vari effetti viene utilizzato anche da un veterano come John Scofield, amante di jazz, di blues e di rhythm blues, che qui incontra invece un chitarrista rock blues che utilizza la sua Fender Stratocaster molto bene. Si chiama John Mayer, anche eccellente cantante, lo conosciamo tutti, e insieme danno vita a questa versione di I Don't Need No Doctor, brano tratto dal repertorio di Ray Charles, proprio da un album tributo a Ray Charles di John Scofield. E quindi proprio sul finale del brano sentiamo i due che duettano e apprezziamo proprio due suoni differenti, anche due tipi di approccio chitarristico diverso. John Scofield e John Mayer al Soundcheck di Radio 24. Finale, un classico call and response fra la chitarra del veterano John Scofield e il più giovane John Mayer con la sua Fender Stratocaster, per chiudere questo appuntamento del Soundcheck dedicato alla chitarra elettrica. Adesso io non sono un chitarrista, ma esistono vari stili, vari approcci diversi: il finger style, il finger picking, il flat picking, poi c'è la chitarra slide che viene suonata con il bottleneck, il classico collo di bottiglia per creare l'effetto glissato, c'è lo shred dei chitarristi rock, lo sweep picking, c'è il tapping, insomma ce n'è per tutti i gusti. Fatto sta che la chitarra è lo strumento più venduto, quello più usato e quello che ormai da tanti anni caratterizza maggiormente il sound delle band. Chiudiamo però con il sound, il suono pulito e il fraseggio inimitabile di un grande protagonista della attuale scena jazz, il bravissimo Kurt Rosenwinkel, in un classico come Summertime di George Gershwin, per chiudere in bellezza questa puntata del nostro Soundcheck. Quindi non mi resta che augurare come sempre a tutti voi buona giornata, buon pomeriggio, buona musica. Restate in contatto con i grandi programmi di Radio 24. Check, il suono della musica.